America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da San Francisco. Mario Platero, sono al seguito del presidente del Consiglio Matteo Renzi, sono allo Yacht Club della città che fu il centro della battaglia per l'America's Cup, qualcuno di voi lo ricorderà. E qui Renzi si è incontrato con dei giovani imprenditori italiani nella Silicon Valley per dare, come dire, un messaggio molto concreto, un messaggio dal fronte, come dicevo ieri, a chi in Italia resiste le riforme. E lo ha fatto usando toni piuttosto duri: se dovrò fare arrabbiare qualcuno, ebbene, lo farò. Ecco, dai grandi finestroni qui sulla baia abbiamo una vista che devo dire è rappresentativa del momento che stiamo passando come paese, perché da una parte sulla sinistra c'è il Golden Gate, il grande ponte simbolo della città, dall'altra sulla destra, sull'isoletta, c'è Alcatraz, appunto l'isoletta con la prigione. E noi come paese, e simbolicamente Renzi devo dire, siamo a metà. Il Presidente del Consiglio ha promesso che piuttosto che continuare con le rigidità che imprigionano le nostre forze, farà arrabbiare, come vi dicevo, qualcuno nei sindacati, nel suo partito, per portarci verso il futuro dalla parte del ponte. San Francisco è per molti di voi, ma anche, lasciatemelo dire, per molti di noi, una capitale del futuro. Il rischio del nostro paese è di essere pieno di città straordinariamente belle, ma che sono capitali del passato. E allora la sfida, grande sfida che noi abbiamo di fronte è quella di riuscire a trasformare noi stessi e a essere gelosi del nostro passato come siamo, ma anche innamorati del nostro futuro. Questo talvolta in Italia non accade. Magari la ragione per cui qualcuno di voi è qua e non è in un, diciamo, nella madre patria, o magari è qua perché gli piace di più, o magari è qua perché è particolarmente appassionato, ha incontrato l'amore della propria vita, o semplicemente perché vuole vivere un'esperienza. Quindi io non credo e non cedo alla cultura del solito racconto: ecco, ci sono i cervelli in fuga. Che poi cervelli in fuga è sempre un'espressione un po' strana, ai cervelli all'estero, e soprattutto non farò il solito discorso che fanno tutti: vi chiedo di tornare in Italia. No, io vi chiedo di andare avanti, non vi chiedo di tornare a casa, vi chiedo di andare avanti e di cercare di cambiare il mondo con le vostre idee, con la vostra passione, con la vostra determinazione. Da parte nostra faremo di tutto per cambiare l'Italia. L'Italia oggi è un paese che ha bisogno di una rivoluzione sistematica su tutti i principali punti di cui stiamo discutendo. Ha bisogno di cambiare la pubblica amministrazione, ha bisogno di cambiare il sistema politico, ha bisogno di cambiare il mondo del lavoro, ha bisogno di investire su una, anche di immagine oltre che di sostanza, su una straordinaria campagna anticorruzione, e ha bisogno di avere una giustizia civile che abbia gli stessi tempi della Francia, della Germania e del Regno Unito, cioè un anno in primo grado. Se noi facciamo queste cose qui in Italia, l'Italia non è un paese normale, perché l'Italia non sarà mai un paese normale. Guardatevi, non siamo un paese normale, siamo un paese speciale, nel bene e nel male. Però io credo che se facciamo queste cose l'Italia tornerà a essere un paese attrattivo. Violeto Carrenzi parlava a un gruppo di imprenditori giovani e meno giovani. Ecco, ne ho intervistato qualcuno. Vi propongo una piccolissima carrellata, giusto per avere un'idea di chi sono. Le esperienze italiane nella Silicon Valley. Può sembrare impossibile, un sogno impossibile, quello di arrivare nella Silicon Valley, dove c'è la più grande concorrenza del mondo, e riuscire dal nulla a creare un'azienda competitiva con quelle americane, con quelle globali. Ecco, Luca Bommassar ci è riuscito, perché ha un'azienda qui vicino a San Francisco che si chiama Guild. Buongiorno Bommassar. Buongiorno. Allora, ci racconti la sua storia, come è arrivato qua? Allora, io ho fondato un'azienda in Europa che si chiamava Coderloop, e l'azienda aveva come scopo trovare i migliori talenti tecnici nel mondo. Noi siamo stati individuati da un'altra società qui in Silicon Valley che facevano più o meno le stesse cose, ma in una maniera low tech. Siamo stati acquisiti e l'unione di queste due aziende ha fondato Guild. Fabrizio Capobianco, un altro degli imprenditori che ha incontrato ieri mattina il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno. Allora, la sua storia: lei è qui da parecchi anni, da 15 anni mi ha detto, quindi ormai è ben radicato in America. Io sono venuto nel 99, avevo fatto due aziende in Italia. La prima azienda di web in Italia si chiamava Internet Graffiti nel 94, avevo 23 anni, e quindi sono venuto qui. Con che idea è venuto? L'idea di creare un'azienda qui che potesse diventare grande. Ma quali, dietro l'idea di creare un'azienda c'è poi un'idea di che cosa fare, che cosa voleva fare con questa azienda? Ah, quella è venuta dopo, io volevo fare un'azienda, poi le idee vengono. Beh, quindi ricordiamolo ai nostri ascoltatori, il senso dell'avventura c'è magari anche prima dell'idea. Così funziona Silicon Valley, giusto? Assolutamente. Ecco, parliamo di facilità di lavorare qua. rispetto all'Italia. In Italia c'è un grande dibattito adesso, in questi giorni, attorno all'articolo 18. I sindacati resistono, vogliono il posto di lavoro garantito anche in particolari situazioni. Ecco, qual è la sua idea rispetto a questo dibattito? Il problema non è come licenziare la gente, il problema è come tenerla. Qui la gente si muove perché l'economia funziona, la gente si sposta. E secondo lei, togliendo il tappo, diciamo, lo chiamiamolo tappo sull'occupazione in Italia, su queste mille rigidità, perché non è solo l'occupazione, secondo lei l'Italia potrebbe esplodere nel senso buono del termine? Guardi, io ritengo da sempre che l'Italia sia il posto migliore al mondo dove fare il software. Abbiamo i migliori ingegneri al mondo, lo so perché sono qui in Silicon Valley, li ho visti gli altri, i ragazzi che ho in Italia sono più bravi di quelli che ci sono qui, lavorano tanto, lavorano duro e non costano neanche tanto, sono anche concorrenziali con Israele, con gli Stati Uniti, la Silicon Valley, i posti dove si fa il software. Ecco, ce ne sono molti altri, ciascuno con una storia, ma tutti con un racconto comune che ha consentito loro di avere successo grazie alla mobilità del lavoro, all'accesso ai mercati del capitale, soprattutto grazie alla sfida del possibile. Si parla dunque di un cambiamento di cultura, perché le regole da sole non bastano. C'è una straordinaria chance per l'Italia, che è quella di smettere di piangersi addosso. Quello che io farò come paese, come governo, come presidente del Consiglio, è, insieme all'aiuto di tutti voi, rendere questo paese talmente semplice, bello e coraggioso da avere voi il bisogno di tornare a casa, da avere voi il bisogno di tenere 10, 20, 30 ingegneri a lavorare, da avere voi la necessità di tornare a casa non perché c'è da prendere le pappardelle al ragù o il vino rosso o le 3F su cui sorvolo perché si aprono discussioni sempre notevoli su quali siano le 3F, ma sarete nelle condizioni di dover tornare a casa vostra, perché casa vostra non è semplicemente il luogo del passato ma il luogo del futuro. Grazie per questo incontro, vi sono personalmente grato. Thank you so much. Ci sarebbero migliaia di approfondimenti, idee da questa costa del Pacifico. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Da San Francisco è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.